Se parliamo dopo mezzanotte c'è una connessione, qualcosa di bello che ci unisce. Quel momento in cui finalmente ci capiamo è come dopo una lunga corsa riuscire a vincere e trovare quell'equilibrio che ogni volta cerchiamo. Ma questo siamo io e te e mille altre cose, cose piccole ma pronte a esplodere. Ancora siamo io e te a cercare chissà dove, cose piccole, cose piccole. È bello quando c'è nell'aria un po' di commozione, quando tiri fuori le parole, quelle giuste, e allora vedi che un po' di pace ce la meritiamo, dopo lunghe giornate passate a uccidere. Puoi ricordarsi ancora una volta perché insieme combattiamo. Ma questo siamo io e te e mille altre cose, cose piccole ma pronte a esplodere.